e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una colonna sonora ci staranno sentendo, io ho qualche difficoltà a sentirmi in cuffia, una colonna sonora che molti avranno riconosciuta è quella di Ritorno al Futuro. Iniziamo così la settimana, Nicoletta, nel contesto fieristico di Emo Milano 2015, siamo nel polo fieristico di Roffiera, siamo ritornate, aggiungerei. Sì. Padiglione 14. Siamo quasi dei piccioni viaggiatori. Esatto, abbiamo preso la cittadinanza onoraria di quest'area. Stand P02, una manifestazione, quella che ci ospita oggi in questo inizio di settimana, che permette di scoprire le ultime tecnologie e macchine al servizio delle aziende per costruire il futuro, le soluzioni d'avanguardia da cui dipende il miglioramento della qualità della vita. Anche noi partiremo parlando di futuro, di nuove soluzioni tecnologiche. Non ci spingeremo in un approfondimento sulle macchine utensili altamente specializzate che vediamo qui, ma parleremo delle nostre autovetture e dei loro documenti che da cartacei si stanno pian piano dematerializzando. Allora, proprio da oggi, lunedì 5 ottobre, il certificato di proprietà per le auto sarà digitale. Chiunque acquisterà un'automobile nuova o usata non riceverà più il certificato cartaceo, ma la sua versione digitale. Questo è un passo avanti molto importante per la semplificazione, che evita anche falsificazioni, oltre che naturalmente smarrimenti, ci tutela dagli smarrimenti. Esatto. E pensi a me. Non è vero, non mi risulta che tu ti sia mai persa un documento di questo genere, non me l'avevi detto. Perdo cose, parecchie cose. Allora, poi anche i contrassegni dell'assicurazione del veicolo dal 18 ottobre, quindi tenete bene a mente questa data, vengono digitalizzati. Non ci sarà più il tagliandino cartaceo che fino ad ora abbiamo esposto sul parabrezza dell'auto, perché il controllo eventuale della copertura assicurativa verrà effettuato attraverso la verifica della targa. Allora, 800 24 00 24, iniziate subito a chiamarci, diteci, vi ricordate quando scade la vostra assicurazione, la vostra compagnia vi ha già comunicato questa novità, che cosa comporta per tutti noi automobilisti? Lo capiremo tra poco con un nostro esperto. E il tema di oggi ci offre lo spunto per parlare di controllo. Tu hai detto che il controllo della copertura però verrà infatti effettuato attraverso la verifica della targa, e noi, diciamo la verità, ci sentiamo controllati, tutto intorno a noi sembra pensato e organizzato per raccogliere e registrare le nostre tracce, smartphone, Facebook, WhatsApp, e questo genera in alcuni una sensazione di fastidio che assume tonalità diverse, si vena di rabbia, di impotenza, di ansia. Voi come la vivete? Ma noi a nostra volta, e questo dobbiamo ammetterlo, nutriamo un sottile, forse inconsapevole desiderio di farci controllare. Offriamo agli altri mille occasioni per tenerci d'occhio, seguirci, spiarci, e con gusto ricambiamo naturalmente il piacere. Controllati a nostra volta diventiamo controllori. Parliamone insieme nella seconda parte di Cuore Denari, insieme a un esperto che voi conoscete bene, il dottor Francesco Aquilar, che ha già postato sulla nostra pagina di Facebook alcune domande per attivare un po' la nostra conversazione. 800 24 00 24. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come io stavo andando tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è sta il semaforo, tu guidi la cazzo le cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta facottara. Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cagatore di macchina? Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone? Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccola e ma taro. Fallo finire che se no ti addobbo. Ma fammi ammazzata, a te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul collo da crisi dei nervi. Situazioni all'italiana, insomma, ben note. Peraltro ogni volta che parliamo di auto ripeschiamo sempre questa gag fra Christian De Sica e Nadia Rinaldi. Chissà se erano in regola con l'assicurazione, se esponevano il loro contrassegno sul parabrezza dell'auto. Allora, contrassegno che dal 18 ottobre è destinato a dematerializzarsi. Cosa vuol dire tutto questo? No, ce lo spiega stamattina il dottor Umberto Guidoni, responsabile del servizio auto di ANIA, l'associazione delle imprese di assicurazione italiane. Dottor Guidoni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ben ritrovato, anzi. Allora, che appunto ci aiuterà a capire come sta avvenendo questo passaggio. Iniziamo subito con il dare un'informazione di servizio. Tutti i dettagli di questo nuovo sistema sono contenuti nella guida pratica RC Auto 2.0, addio tagliando di carta, realizzato da ANIA. Questa guida è pubblicata sul sito internet dell'associazione www.ania.it, ma noi l'abbiamo subito condiviso anche sui nostri social, per cui andate a cercarlo. È una guida molto, molto, molto concreta, davvero molto semplice, per cui ci dà immediatamente una visione chiara su questo cambiamento. Che può sembrare, dottor Guidoni, un semplice cambiamento tecnico, si tratta invece di una novità importante, perché l'obiettivo è combattere le frodi, sanare la situazione assicurativa dell'auto in Italia, che ha tanti problemi, adesso magari torniamo a ricordarli. C'è un problema evidente di frode assicurativa nel nostro paese, ci dà qualche numero per descriverci questo fenomeno, dottor Guidoni? Ma noi abbiamo, dal punto di vista dell'evasione assicurativa, cioè dei soggetti che pur avendo una proprietà di un veicolo non pagano l'assicurazione, di 3 milioni e 900 mila persone, circa il 10% del totale del parco veicoli circolanti. Quindi è un dato estremamente allarmante che praticamente rappresenta un rischio per tutti coloro che circolano, perché avere un incidente con una persona che non è assicurata comporta notevoli problemi, per di più la frode assicurativa, determinando un numero di premi inferiori a quello che dovrebbe esserci, va a impattare anche su chi onestamente paga il tagliando e paga l'assicurazione. Proprio per il fatto che il sistema assicurativo si muove in una ottica mutualistica, poi magari ci torniamo. Dunque, per combattere queste cifre impressionanti si è provveduto con questi due provvedimenti. Si è partiti a giugno con la dematerializzazione dell'attestato di rischio, adesso dal 18 ottobre sparisce il contrassegno assicurativo dal parabrezza. Dunque, l'ANIA che messaggio vuole dare, dottor Guidoni? Perché è importante che tutti gli italiani conoscano queste novità? Secondo me sono delle novità abbastanza significative, perché andiamo con una rivoluzione, diciamo così, abituati ormai da decenni ad avere il contrassegno assicurativo sul parabrezza del veicolo e quindi ad aspettare che la nostra compagnia all'atto del pagamento del premio ci dia in cambio, diciamo così, questo prezioso tagliandino. Ci troviamo a non doverlo più avere, a non doverlo più richiedere, e quindi ad avere una condizione sicuramente che va verso un discorso di maggiore rapporto telematico con il cliente, con l'assicurato, e quindi una possibilità di un controllo più diretto e più sicuro sulla reale copertura assicurativa. Oggi sarà possibile, attraverso la verifica delle targhe, andare a stabilire se un veicolo che circola è coperto o meno dall'assicurazione. Quindi Benissimo. Sarà molto più difficile falsificare praticamente un qualcosa che non esiste più, cosa che invece fino ad oggi era estremamente diffusa, soprattutto. E infatti, in ma questo aspetto ci colpisce molto, dottor Guidoni, ma è davvero così facile falsificare il contrassegno assicurativo? Dove sono queste stampanti magiche che duplicano questo documento in maniera così fedele, così precisa, al punto tale che insomma magari le autorità si confondono e non riconoscono un tagliando vero da uno falso? Ma sicuramente nel momento in cui le autorità bloccano un veicolo che circola e fanno una verifica sul tagliando assicurativo, si accorgono della falsificazione. Molto più complesso è andarlo a verificare magari con un'auto che non viene bloccata da parte delle forze dell'ordine. Sicuramente questo fenomeno molto diffuso, perché è difficile che ci sia una ricorrenza, diciamo così, nei controlli, e quindi si rischia, anche perché un tagliando falsificato costa qualche decina di euro, e chiaramente questo comporta un premio assicurativo. Certamente. Allora, ci fermiamo adesso, perché abbiamo già, parlando di auto, i suggerimenti per chi sta viaggiando. Ricordiamo il nostro numero verde, sì. 800 24 0024. Potete come sempre mandarci messaggi al 349 238 6666. Anche se siamo qua a demo 2015, ci potete raggiungere. Certo, ovunque. Abbiamo già dei nostri ascoltatori, sì, che allora, vogliamo... stanno commentando, esatto, questa situazione. Ma possiamo noi... mandare il traffico, da quello che capisco. Possiamo, via. Andiamo. Linea Smau Milano. Ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. vi presenta Cuore e Denari. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina, nella macchina. E dalla macchina presto sparisce il contrassegno dell'assicurazione e attenzione a questa scadenza, il 18 ottobre sparisce il contrassegno dal nostro parabrezza. Ci sta spiegando tutto su questa novità Umberto Guidoni, responsabile del servizio auto di ANIA, l'associazione delle imprese di assicurazione. Molti ascoltatori già stanno mettendosi in fila per chiedere chiarimenti su tutto ciò, l'800 24 00 24. Ma dottor Guidoni, se proprio noi siamo assolutamente affezionati alla versione cartacea del nostro tagliando assicurativo, potrò comunque chiederlo all'assicurazione, non tanto per esporlo quanto magari per averlo con me, un po' come la copertina di Linus, continuare a tenerlo magari nel cruscotto dell'auto? Veramente, e nel caso ti potresti mettere il microfono sceso, ecco. Scusa, veramente vorresti farlo? No, io no, però anche perché sta lì, come sta lì se non c'è per me lo stesso. Dottor Guidoni, guardi, nella fase sperimentale, nella fase di transizione che consentirà agli italiani di abituarsi a questa novità, alcune compagnie hanno deciso anche dopo il 18 ottobre, per un certo periodo di tempo abbastanza limitato, di inviare il tagliando. È puramente un atto, diciamo così, di assuefazione ad una nuova disciplina. Il tagliando non va comunque più esposto e servirà solo per avere quelle informazioni che sono utili per l'assicurato. Quindi c'è questo comportamento nella fase sperimentale da parte di alcune compagnie, ma che tenderà ad esaurirsi una volta che il sistema sarà entrato più a regime. Una sorta di periodo transitorio, tanto proprio per accontentare gli irriducibili della carta. 800 24 00 24. Adesso andiamo al tema centrale, che è quello di dire come si potrà capire se una persona è regolarmente assicurata, visto che non dovrà più esporre il tagliando. Ma prima di questo, dottor Guidoni, una domanda di Vincenzo dalla provincia di Forlì Cesena, che è il primo ascoltatore oggi a mettersi in collegamento con noi. Vincenzo, benvenuto. Sì, buongiorno, saluto tutti dalla Romagna. Sarò telegrafico. La domanda è questa: la famosa carta verde che accompagna il veicolo quando si va all'estero, sì, che fine fa? Rimane ancora? Grazie. Voleva sapere se anche questa si dematerializza. Dottor Guidoni, è in qualche maniera legata la carta verde anche al tagliando assicurativo da esporre sul parabrezza, che non verrà più esposto sul parabrezza? Perché il tema di chi va all'estero ce l'eravamo posti e volevamo affrontarlo infatti ad un certo punto della puntata. Vincenzo ci consente di anticipare. Allora, diciamo che gli unici documenti che vengono dematerializzati sono l'attestato di rischio, come lei ha correttamente detto all'inizio della trasmissione, e il tagliando. Tutto il resto rimane cartaceo, quindi sia il certificato di assicurazione, che è utile e necessario portare con sé sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea, sia la carta verde, che invece dovrà essere esibita nel caso in cui venga richiesto nei paesi extra UE. Questi documenti attestano in qualche modo ad un controllo non in Italia che c'è una copertura assicurativa. Ecco, questo è fondamentale. Però noi suggeriamo di portare con sé il certificato di assicurazione anche in Italia, anzi è obbligatorio questo, la norma lo prevede, perché in caso di incidente questo consente di verificare i dati assicurativi dei due veicoli che hanno appunto prodotto il sinistro. Quindi, che è un documento diverso quindi dal tagliando che veniva fino ad ora esposto sul parabrezza, dottor Guidoni? Certamente, anche perché il tagliando veniva consegnato insieme a tutta la documentazione cartacea, che appunto è il contratto, chiamiamolo così, di assicurazione, e poi veniva staccato da quella, diciamo così, dal resto della documentazione, e veniva apposto sul parabrezza. Adesso arriverà tutta questa documentazione senza il tagliando, ma questa documentazione, come prevede il codice delle assicurazioni, è obbligatoria, quindi non viene dematerializzata, è obbligatoria a portarla con sé quando si viaggia. Quindi un po' abbiamo anche risposto, Nicoletta, a tutti gli ascoltatori che stavano già sollevando la questione. al 349-238-6666. Continuate a scriverci, alcuni ascoltatori ci scrivono ad esempio: in caso di incidente, come capisco che il veicolo è assicurato e dove trovo il numero di assicurazione? Esatto. La compagnia, Danilo ci dice, in questo modo, con questa norma circoleranno più auto, certo, con delle targhe false. Quindi, esatto, allora sono protagonista, dottor Guidoni, di un sinistro, di un piccolo incidente. Naturalmente devo verificare se la parte che mi ha danneggiato, non sto guardando te, sia regolarmente assicurata, naturalmente, per fare il suo dovere, ammettendo che peraltro non ci sia bisogno del controllo delle forze dell'ordine, non sa quei casi in cui si fa la cosiddetta constatazione amichevole. Esatto, lì come funziona? Come faccio ad essere sicura che la controparte sia assicurata e faccia il suo dovere e mi ripari il danno, si rivolga alla sua assicurazione per ripararmi il danno? Come le dicevo, è necessario avere con sé il certificato di assicurazione, quindi quando si viaggia, ma attualmente già la norma prevede questo, anche con il contrassegno, diciamo così, cartaceo, la norma prevede che i documenti necessari da portare in auto siano appunto il tagliando e il certificato di assicurazione. Questo per una ragione legata a quello che dicevamo prima, il discorso delle frodi, no? La falsificazione del contrassegno dava modo, diciamo così, di circolare, uno si era fatto molto bene, era difficile da verificare. Nel momento in cui uno viene fermato da una pattuglia, come se l'esibizione del contratto attesta il reale pagamento, nel caso in cui ci sia un controllo da parte delle forze dell'ordine, e l'esibizione del contratto, del certificato di assicurazione in caso di sinistro, consente di dare, certo, alla controparte le indicazioni relative alla propria assicurazione e quindi di andare a sanare, come dire, tutte le informazioni necessarie anche per una constatazione amichevole del sinistro. Certo. Allora, abbiamo 30 secondi di tempo prima di chiudere questo primo blocco. Adamo da Pescara, forse lei aveva proprio questa domanda, abbiamo soddisfatto la sua curiosità, voleva aggiungere qualcosa? No, va bene, quindi ho sentito che praticamente ha risposto, quindi comunque noi automobilisti abbiamo la ricevuta. Sostanzialmente il contratto di assicurazione, cioè, dai, quello dovrebbe... Quindi promossi, Adamo, 7 più, dai. Allora, adesso abbiamo chiaramente parlato dei casi più semplici nei quali ci possiamo imbattere, poi andremo ai più complicati, soprattutto se ci scontriamo con un'auto non assicurata. Che succede dopo il giornale radio? Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Fatto la rassegna stampa. Sì, l'abbiamo controllato. Mm-hmm. Vogliamo essere sul pezzo. Intanto chiediamo subito ai nostri ascoltatori, controllori o controllati, schieratevi 800 24 00 24. Intanto noi abbiamo fatto un po' di rassegna stampa e sulla stampa, esatto, il giornale di Torino che io leggo sempre. Salutiamo il direttore Mario Calabresi. Un articolo di Massimo Russo, vogliamo commentarlo col dottor Aquilar, che forse non ha controllato e quindi gli è nuova. Ma questa è divertente. Allora, l'iPhone che abbiamo in tasca ora tiene conto anche della nostra attività sessuale. Calmi tutti, non lo fa da sé, spiandoci a nostra insaputa, ma almeno per ora bisogna sia il proprietario a dirglielo nel sistema operativo con l'aggiornamento che si dice iOS 9, sì, giusto, è l'ultimo comunque, è reso disponibile da Apple 20 giorni fa, all'interno dell'applicazione dedicata alla salute, a fianco dell'attività fisica, dell'alimentazione, dei parametri vitali e del monitoraggio del sonno, compare una voce dedicata alla salute riproduttiva. Massimo Russo continua l'articolo dicendo che l'argomento si è subito prestato all'ironia macista, ma di questa ironia naturalmente il dottor Aquila può immaginare quale sia, no? Del tipo ti capita così di rado che te lo devi riscrivere, eccetera. Ma che cosa ci dice questa nuova possibilità? Ci dice che siamo sempre sulla dialettica tra esibizionismo e privacy, che continua e di cui parlava anche l'ascoltatore Valerio da Roma, che si occupava in particolare di segnalare l'importanza della privacy. Da un lato c'è anche la dialettica tra troppo controllo e troppo poco controllo. In qualche modo anche avere una consapevolezza della propria vita sessuale è interessante, certamente è un tema importante, ma si presta ad una serie non solo di battute e frizzi e lazzi, ma anche di cattivi usi di questo aspetto che possono diventare in qualche modo un imprigionamento anche delle spinte emotive sessuali che dovrebbero essere naturali e libere. Ci sono delle cose che vogliamo che gli altri sappiano di noi, altre cose invece che non vorremmo mai, no, che sapessero. Anche su questo, dottor Aquilar, potremmo riflettere e capire qualche cosa in più di noi, anche di quanto i social abbiano sdoganato le nostre paure, le nostre ansie, ne abbiano fatto nascere di nuove. E anche c'è la questione che ci sono alcune persone che ci tengono particolarmente a farsi sentire arrabbiati. Vogliono in qualche modo condividere questa rabbia nella sensazione che raccontando la propria rabbia possa cambiare il mondo. Qua ci sono queste implicazioni, nel senso che avere un uditorio più ampio, che sia reale o illusorio, poi si deve vedere, a volte fa sì che le persone perdano il controllo davvero sulla propria capacità di negoziare una relazione con gli altri, e quindi l'invito è sempre alla consapevolezza. Infatti la terza domanda che avevo postato su Facebook era proprio sull'importanza della privacy, e la quarta era sul fastidio che a volte proviamo sentendoci ipercontrollati da qualcuno senza sapere come fare a venirne fuori. Questo qualcuno posso essere anche io stesso, quindi diventiamone consapevoli e liberiamoci da questi legacci. Allora, io uscirei un attimo da Facebook e dai social per entrare a casa nostra. Ciascuno di noi ha delle piccole manie che a volte diventano ossessione, dei controlli che facciamo, no? Quasi in serie, ogni giorno prima di uscire, controlli il gas, controlli di aver messo l'allarme, controlli che il gattino abbia l'acqua, controlli che di aver spento. Se Emma la lasci senza mangiare. No, guarda, mi mangia viva. Allora, a volte noi notiamo che di questi controlli diventiamo schiavi, e così dobbiamo tornare su a controllare se il gas era spento, non riusciamo ad uscire se il tutto non è a posto. Dottor Aquilar, ci aiuta a capire come da dei controlli che sono in qualche modo protettivi diventano invece dei controlli che in qualche modo limitano la nostra libertà? In qualche modo è sempre una questione di quantità. Una verifica di tutte le cose più necessarie o pericolose prima di uscire o prima di spostarsi di per sé sarebbe assolutamente raccomandabile, ma quando c'è invece un disturbo d'ansia che diventa forte e sfiora situazioni ossessive, il problema c'è che le persone soffrono di un deficit della memoria per le azioni. Cioè io ho fatto una cosa, ma non mi ricordo di averla fatta, ho il dubbio di non averla fatta, e questo può prendere il sopravvento sulla mia vita, e alcuni passano la vita a controllare, quindi non riescono più a far nulla. Dobbiamo anche accettare il rischio, mantenere viva la memoria per le azioni e accettare il rischio che comunque non potremo controllare tutto. Professor Aquilar, c'è poi il controllo che noi esercitiamo sulle persone a noi vicino, i figli che si sentono molto controllati dai genitori, i cellulari sono sicuramente un po' dei guinzagli, no? Che i genitori utilizzano per lasciare un po' di libertà ai figli, che escono però vanno tenuti sotto controllo, e oppure nei confronti del nostro compagno, di nostro marito. Ci sono molti sms che ci raccontano come, no, si possa in qualche modo tenere sotto controllo il proprio compagno, verificare se sta andando esattamente in quel posto lì. Insomma, la tecnologia a volte ci è utile, ma se noi arriviamo a questi controlli, forse, dottor Aquilar, alla fine possiamo tenere sempre tutto sotto controllo, ma qualche cosa lo perdiamo, ad esempio della nostra serenità, dico io. Non solo, perdiamo la fiducia nelle relazioni e soprattutto aumentiamo lo sfizio, come diremmo noi napoletani, dei controllati di sfuggire al controllo. Quindi in qualche modo più i genitori tentano di essere controllori, più vengono gabbati in tutti i modi, e lo stesso vale anche per i partner. Quindi dovremmo stare attenti a questo effetto negativo dell'azione di controllo, che spinge anche chi non vorrebbe mentire a mentire semplicemente per difendere la propria libertà un pochino e la propria autonomia. Di fiato, come si dice, lasciami un po' di respiro. Giuseppe, esatto. Buongiorno da Alessandria, 800240024, benvenuto. Grazie, è un piacere parlare con voi. Scusate, sto passando da un ufficio all'altro. No, innanzitutto volevo dire una cosa velocissima mentre attendevo di essere messo in linea. e cioè che una volta ci si, quando io ero ragazzo, ci si vantava al bar delle conquiste che si erano fatte durante l'estate o delle varie prestazioni, adesso si fa attraverso l'iPhone, però anche questo è un altro segno forse dei tempi che cambiano, no? È vero, mentre, mentre io volevo dire semplicemente questo, che io sono un soggetto assolutamente, come si può dire, controllabile, perché io qualsiasi cosa faccio, ad esempio pago con bancomat, carta di credito, telepass, navigatore, per cui se uno volesse mettersi a ricostruire la mia giornata alle sue calcagne, certo Giuseppe, esattamente nelle... 30 secondi, no? Però è anche vero che per quanto riguarda i social, insomma, se si vuole fare a meno di essere controllati, lo si fa. Ad esempio, io l'unico social che utilizzo è Facebook, ma ho 30 amici che sono quelli con cui poi mi relaziono nella vita reale, cioè non ho amici di amici di amici che non ho mai neanche visto in faccia, certo. Quindi semplicemente vado a condividere o condivido cose con persone che veramente fanno parte della mia vita, non così in modo virtuale e basta. WhatsApp penso di essere uno dei 20 italiani che non ce l'ha installato, per cui io non lo utilizzo e se ho bisogno del telefono chiamo o mando un SMS e fine la trasmissione, per cui credo che se si vuole fare a meno di essere controllati lo si può fare. Lo si possa fare. Poi se si vuole tramutare tutto questo, come diceva il dottor Aquilari, in come si può dire, in esibizionismo, allora i social sono una fonte veramente meravigliosa per far questo. Ce lo offrono su un piatto d'argento. Dottor Aquilar, un breve commento all'intervento di Giuseppe. È che una volta ci si vantava al bar delle conquiste, adesso voi ce ne si vanta sui social, ma sempre balle sono. Sono sempre balle sono. Sì. E quindi lo stesso, diciamo, livello di gonfiamento delle cose che fanno orgoglio. E il secondo punto, certo, bisogna favorire una consapevolezza di un'utilizzazione strategica e consapevole dei social. Il nostro ascoltatore voleva farlo riservato agli amici, ci sono alcuni che invece lo riservano, come l'altro ascoltatore, a persone che hanno in comune degli interessi. E possiamo riservarlo agli argomenti, ma quelli che invece hanno bisogno assoluto di una di un uditorio vasto non resisteranno e accetteranno chiunque purché possa dargli un mi piace che li fa sentire più importanti. Allora, adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma avete dato un controllino anche voi? Sapete alle che sono notizie. State assegnati Nobel per la medicina, premiate degli studi contro le infezioni alla malaria. Subito dopo le informazioni sul traffico scopriremo di più insieme alla professoressa Gismondo e al dottor con il dottor Aquilar continueremo a parlare di controllo e controllori. 800 24 00 24, voilà, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme in una puntata in cui parliamo di controllo, abbiamo naturalmente sempre sotto controllo le novità ed ecco il, è stato assegnato il Nobel per la medicina. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Maria Rita Gismondo che è direttore della microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Benvenuta. Lo commentiamo con lei perché il Nobel per la medicina premia degli studi contro le infezioni e la malaria. Ci faccia un commento rapido in modo che stiamo sulla notizia. Innanzitutto sono felicissima perché siamo tutti con questi nuovi premi Nobel, finalmente nuovamente torna sulla scena un premio contro le malattie infettive che si crede che siano scomparse. La malaria fa vittime molto più che non l'AIDS di cui si parla, molto più che dell'epatite. La malaria è un disastro mondiale. Peraltro nel cambiamento del clima al quale stiamo assistendo deve preoccuparci tutti. Noi ci stiamo tropicalizzando e si pensa che da qui a 20 anni la malaria possa essere nuovamente un problema anche delle nostre zone territoriali. Quindi ottimi questi studi, contentissima del fatto che Campbell e UU2 abbiano avuto questo premio, e si aprono le porte per una terapia che salverà milioni di vite, quindi da vicina alla ricerca, se non tutta messa all'interno della ricerca, non posso che essere felice. Certamente è lo studio che ci porterà a brevissimo alla sconfitta di questa malattia. Ancora un Nobel che risolve e salva milioni di vite, come non dimentichiamo l'ha fatto per l'HPV un Nobel precedente, e speriamo altri Nobel che ci garantiscono una migliore qualità di vita. Grazie professoressa Gismondo per questo commento, direi proprio caldissimo, freschissimo. Torneremo naturalmente anche sul Nobel per la medicina, magari che inviteremo la professoressa Gismondo a dettagliarci un pochino, parleremo anche di malaria e delle nuove terapie contro le infezioni da parassiti. Professoressa Gismondo, grazie, buona giornata. A voi, buona giornata a voi. Dottor Aquilar, noi torniamo insieme ai nostri ascoltatori che si sono candidati per chiacchierare con noi. Giuseppe da Barletta, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Controllato, controllore? Cosa si sente lei? Non ero né controllato né controllore. Libero. Però posso dire che il rapporto tra Facebook e la privacy è sottilissimo, perché hanno rovinato un po' i rapporti tra amici, amicali, tra rapporti marito e moglie, anche tra fidanzati. Però la cosa più importante è che non sanno più cos'è scrivere una lettera, perché anche ci sono molti errori grammaticali. Quindi penso che siamo diventati anche più ignoranti. Insomma Giuseppe, i social lei non le vanno giù. Ce li boccia proprio al 100%. Dottor Aquila, era un po' negativo Giuseppe nei confronti dei social. In effetti, insomma, qualche cosa c'è. Qualche scricchiolio fra qualche compagno. È inevitabile, ti danno e ti tolgono. Dottor Aquila, sono abbastanza per saggia. Soprattutto per i ragazzi, che devono essere in qualche modo aiutati ad utilizzarli bene. Io penso che i social sono uno strumento neutro, come un bisturi. Possono essere utilizzati per salvare la vita o per toglierla, e che il problema consiste nel sensibilizzare le persone ad utilizzare bene la privacy, ad essere consapevoli delle conseguenze delle loro azioni. Per quello che poi riguarda gli errori grammaticali, potrebbe essere una buona occasione per imparare meglio l'italiano, e anche qua serve una posizione che possa modificare l'idea degli utilizzatori di Facebook. Ma ci sono già sui social una serie di inviti a migliorare il proprio italiano, anche per non fare brutta figura quando si posta un commento magari interessante ma sgrammaticato. Allora, dottor Aquilar, lei ha dato qualche dritta, no? Quindi per prendere solamente il buono da tutte queste opportunità che ci offrono i social. La prima è non mettete su internet troppe cose, troppe informazioni privatissime, perché prima o poi vi sentirete troppo scoperti. Possiamo suggerirne un altro paio, magari? Certo, cerchiamo di resistere alla curiosità di spiare il prossimo. E apparentemente una cosa divertente. Quella, dottor Aquilar, è molto difficile, soprattutto al giorno d'oggi, dove tutti si fanno i fatti degli altri per evitare di farsi i propri. Perché... Ma costa molto in termini di tensioni interne, di preoccupazioni, di possibili emozioni negative, quale l'invidia, la gelosia, la rabbia, l'emulazione negativa, e quindi sarebbe preferibile rassegnarci a non spiare troppo il prossimo per vivere meglio noi. L'altra ovvia indicazione è di stare attenti alla privacy e di spiegarlo ai nostri figli, ai ragazzi e agli adolescenti, perché ovviamente un adulto dovrebbe saperlo, ma un ragazzo non lo sa, e serve un'attenzione dei genitori, anziché controllare i figli, a dare loro istruzioni di comportamento e spiegazioni sulle implicazioni che non sempre i più giovani riescono a calcolare. E infine io direi, manteniamo rapporti personali non virtuali con un buon numero di persone, ad esempio i familiari e 10 amici. Perché è il numero mi dice di persone 10? Che possiamo gestire. Dottor Aquilar, perché mi dice 10? 10 perché è il numero di persone che possiamo gestire, con cui possiamo condividere le emozioni e che possiamo nutrire di affetto, ricevendone altrettanto reale e non virtuale. abbiamo già un sistema di vita piuttosto ingorgato nella maggioranza delle persone e quindi più di 10 rapporti seri è difficile che riusciamo a mantenere. Per nutrire quelli ottimi dovremmo rinunciare a quelli buoni e naturalmente a quelli cattivi, ma quelli ottimi sono i più preziosi. Quindi quando uno ti dirà sei nei miei 10, tu capirai che sei proprio un amico a cui tieni in modo particolare. Nella classifica stai in un posto alto, insomma. Vedi? Allora, podio. Grazie dottor Aquilar per essere stato con noi. Grazie. Naturalmente il dottor Aquilar vi segue su Facebook, postate le vostre... Ma fini positivi, naturalmente. Certo, potete rispondere alle domande che il dottor Aquilar ha postato e ricevere anche da lui un commento, un consiglio. Dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buona giornata. E a proposito di controllo, ricordatevi che per tutto il mese di ottobre il professor Luini risponde a tutte le vostre domande in tema di prevenzione, salute femminile, tumore del seno e naturalmente regole di prevenzione. Scrivete le vostre domande sempre su Facebook, troverete risposta. Noi ci sentiamo domani in postazione regolare a Milano. Grazie a tutti, buona giornata.